10. E ci c'è nessuno? Attenzione, Franco, mi ascolti, cambio. E va. Buonasera, Carlo da questa. Qui Carlo, ciao, buonasera. Gianni, sì. Ehi, H. Me lo fai un controllino, già, come sto uscendo con questo microfono? Allora, se no sei 9.30, il microfono va benissimo, la radio è bella limpida. Avanti, Franco. Ehi, a Santiago 3 però. E a me come mi ascolti, Franco? Caraga, va bene. Franco, e a me mi senti? Qua mi arrivi Santiago di 6, Radio 3, un po' bassina. Ia, buonasera Carlo da questa parte con Gianni. E allora Carlo, ieri quel ventaccio che c'era, ne siete visto? Ma Gian, puoi ripetere per favore? Ho detto, hai visto ieri che ventaccio che c'era? Già è a posto l'antenna. Ma non tutte, se qualcuno l'ha piegata. E questa pare che sia tutto a posto la mia, nonostante la posizione che è molto alta e esposta, capito? E oscillava, ma non più di tanto, capito? Ma non tira molto vento, con fronte a casa mia, solo di fronte tutto al mare, tira, ci incanala proprio il vento, lo capito? Ho praticamente cambiato microfono, ho messo l'MB più 4 e, capito, ho tolto il mio che era un microfono originale della radio, che sono quelli Electret, capito, e sono alimentati, però avevo così il ghiribizzo, diciamo, di cambiare microfono, anche se qua mi avevano consigliato non cambiare microfono che bruci la radio, eccetera, ma se fai giusti collegamenti, ho detto, perché la devi bruciare la radio? Ma infatti, il microfono, guarda, era buono anche l'altro che ha visto, ce l'ho sempre detto che la radio era bella, era molto presente come radio, ma questa qua al massimo ce l'ha. No, questo ce l'ho sul selettore 4 adesso. Prova a stare. Guarda, in questo momento lo sto sollevando a 7. Così va bene. È aumentata qualcosa, perché mi aveva fatto un controllo Claudio e mi ha detto che non cambiava niente, però forse c'era la batteria andata, capito? Adesso ci ho messo una batteria nuova e non so se sta andando bene o male. No, aumentata. Chi sei? Vieni avanti. California, sono Carlo qua, modulazione da Sassari, zona Luna e Sole, c'è Gianni anche in mia compagnia. E Franco, lo stai andando a pescare. Aciugamido, ho capito, aciugamido. Vabbè, comunque è interessante che mi senti là. Franco, io come ti sto arrivando lì all'aeroporto? Benemeda, ma qualcuno in partenza? Stai accompagnando qualcuno? Ho capito, Franco. Niente, io ho cambiato microfono e sto facendo delle prove, capito, per vedere se va bene questo. Niente, però sto uscendo con i watt della radio solamente. Guarda, sentiamo la radio in lontananza, Franco. Ti sento abbastanza chiaro, non è fortissima la radio, però è Santiago 6 e la radio è di 3, però già si capisce. Avanti Gianni, se già lo senti anche tu, Franco, anche meglio di me forse. No, io di Santiago lo dicevo più basso. La radio com'è? Non provo ad attaccare, buono così. Prova. Sì, tre di segnale da me, aspetta che guardo però se c'ho le repeghine chiuse, non lo so, devo controllare. Aumentato un pochettino, Santiago 7, la radio è diciamo quasi 4, diciamo che ti tiriamo fuori tranquillamente qua, capito? Non c'è molto QRM, per cui a volte ci sono quelle bordate che salgono sino a 7, magari ti avrebbe un po' coperto, però stai andando, ti capiamo bene qua. Gianni, cosa stai operando? Sto prendendo le cuffie perché la mia compagna sta cantando, non li comprendo nulla, aspetta. Oh Franco, sei fermo oppure sei in movimento? Immagino che tu sia fermo adesso. Ho capito, io c'ho il turno stanotte, faccio il servizio di notte e c'ho il pattugliamento, però entro alle 21 lì ci sarò. Quasi non ti ascolto io, liscio, che sei in Santiago 2, là. Ehi, andiamo di qua a Rema, hai capito? Adesso sono in cuffia là, così almeno non mi disturba che sta cantando. Prova adesso. Adesso sei più forte, come mai? Adesso stai arrivando quasi 4. Carlo, Carlo. Dimmi, Cla. Ciao, buonasera a tutti. Me l'hai fatto con la prova? Sì, signore, infatti se mi dai un controllino, c'è Gianni e Franco che all'aeroporto, Franco. E io sento a Franco. Sembra che hai migliorato, ce l'hai come l'hai regolato stamattina? Adesso ho iniziato con 4, poi Gianni mi ha detto prova ad aumentare, sono arrivato a 7. Se vuoi facciamo una prova, lo riporto a 4 e poi mentre parlo lo aumento a 7, così mi dirai. Io non sento per amplificazione, mettilo al massimo. Adesso sono a 10. Io non sento per amplificazione, poi se ti hanno detto che ho amplificato io amplificazione, non sento, io almeno più 4 ce l'ho. Per me non sto amplificando col microfono. Ho capito, può essere pure che non prenda l'amplificazione con questo tipo di radio. Il microfono sta uscendo perché mi dà TX, RX, insomma, sta uscendo bene. I collegamenti li ho fatti giusti perché sono stato abbastanza meticoloso, eccetera. Ho messo una batteria nuova, Duracell, comprata, quindi appena comprata, quindi sono è garanzia che insomma è nuova e carica, però se non c'è miglioramento rimetto l'altro. Io non sento nessuna preamplificazione, tu Gianni senti preamplificazione rispetto a un microfono MB+4. Ma diciamo che questo è MB+4 che non è stato toccato, nel MB+4 l'amplificatore ce l'ha così, non amplifica più di tanto se non gli fai quel lavoretto che si fa, no? E poi comunque ha aumentato il radio, perché se adesso te lo fa ascoltare più basso, poi vedi che aumenta, sempre di più. Però l'amplificazione delle MB+4 è quella lì, la radio molto chiara, con un po' di amplificatore, non esagerata, capito? Già io queste cose non le accetto, però perché se parliamo che un microfono si può modificare, si modifica, va bene, ma non dite che l'MB+4 non amplifica, perché quello che uso io sul Galaxy è originale, io non ho fatto nessuna modifica, non ho fatto niente, nulla. Quello che uso sull'Uranus è uguale, quello che uso sull'Elbex è uguale, e amplifica la paura. Cosa vuol dire va modificato? Allora uno vende un microfono perché deve essere modificato per dare l'amplificazione. Non esiste già, si può modificare e avere qualche cosettina in più, ma non è che non amplifica. Io non sento nessuna preamplificazione, capito? Se io adesso cambio, non posso perché sto facendo altro in bando amatoriale, ma dico, se io cambio e metto l'MB+4 sopra un qualsiasi baracchino, ti faccio vedere la differenza che c'è. Cioè io non ne ho di MB+4 modificati, l'unico che avevo era quello che avevo comprato a Gigi Vulcano e basta, e sono tutti originali e grazie a Dio amplificano bene. Non sento amplificazione, evidentemente quella radio, Carlo, non va bene per quel tipo di microfono, lo so, dovresti cercarti un Tarne più 3, un qualcosa di più performante dell'MB+4, non so, io non sento nessuna preamplificazione, assolutamente. Guarda, adesso come mi senti? L'ho abbassato a 1. Sento uguale, tu guarda, parlando, senza mollare, parla, inizia da 1 sino a 10, vediamo cosa amplifica. Ok, adesso parto da 1 e giro la rotellina, la sto girando in questo momento sino al massimo, adesso è a 10. Cioè, secondo te c'è amplificazione, Gianni? C'è un zizì. Un minimo d'aumento, cioè, io lo sento perché sono in cuffia di qua, lo sento di più forse così. L'aumento c'è di volume, però sì, in effetti l'amplificatore non è ultimo, non è ultimo come amplificazione. Quei microfoni lì a volte anche la timbrica che vuol dire molto, dai. Hai detto una cosa bella, hai detto una cosa giusta, io sento solo un cambio di volume e basta, ma non per amplificazione. Vabbè Carlo, lascialo così, già ti dico, anche per comodità, esci un po' pochino più forte del microfono normale, però io mi aspettavo qualcosa di più. Vabbè, dai. Vi saluto, buona serata a tutti e ci sentiamo alle prossime. Sono entrato per dire questo perché poi stamattina ero impegnato, Carlo, non abbiamo avuto modo di fare altre prove. Ok, dai, ti rilancio il cambio. Rimango in ascolto, ciao a tutti. Ok, grazie Cla. Niente, nel microfono originale praticamente ho sollevato un po', c'è un trimmer dietro la ceramica, diciamo ho sollevato un po' quello, poi provo come va, perché qualcuno dice che sollevando un po' quel trimmer va meglio il microfono originale di uno preamplificato, capito? Ma il trimmer della radio? No, sempre del microfono. Non lo so, io non li ho mai toccati, non lo so. Vabbè, lui di tu, ok. Ci sentiamo, dai, vi lascio che sto facendo cosa in mondo materiale. Ciao, ciao. Ciao Franco, California, ti ascolto, tranquillo. Ciao Fra, sì, anche tu arrivi benissimo, dai. Io sono liscio liscio col 4.30, ma sto facendo alcune cosettine qua, vi devo lasciare. Sentiamo le prossime, dai. Scusate se in questo periodo sto entrando poco, ma sto facendo un po' più di banda materiale. Le prendi Gianni e fai girare, ciao ciao ciao ciao. Ehi, ciao, però ci sentiamo, lasciamo qua. Sì, ma se vuoi puoi provare l'altro anche così vediamo la differenza per darti anche un parere, dai. Guarda adesso come va con questo, ho cambiato microfono, ho messo quello originale e ho sollevato un po' il trimmer qua. È bella presente, caro, la radio bella presente. Va benissimo. Quasi quasi va meglio il microfono normale che quello là. Vabbè, ciao ciao. Bene, fatto le parole di bocca. Quello normale va molto bene, ma non va bene da prima, io glielo ho detto che la radio era bella chiara, bella presente. Io non ti conosco di verticale, però penso che sia la tua voce naturale quella che manda quel microfono lì. Sì, solo che lo devo rivedere perché ho visto si blocca il tasto PPT, forse come l'ho chiuso magari non ho incastrato il pirulino, capite? Quindi mi rimane bloccato con la trasmissione aperta l'originale. Adesso mi appento col cacciavite, lo riapro e lo richiudo e lo metto in posizione. Ehi, a Franco, avanti, ma con chi sei con la console? Franco, ho detto con Lucia sì. Ah, mi sei mosso, no? Fatto questo. Io l'altro giorno sono andato a prendere a Manuela, mia figlia, Cantarona, un'ora di ritardo ce l'aveva quella aerea. Poi dice che ogni volta da Bologna, prima di partire, gli devono pulire tutte le ali dal ghiaccio. Ma qual è l'altro giorno, quale ci avevi, conosci più bene? Quella che devi dare a me? No, quella sta bella la macchina mia perché è nera. Ma sto scherzando, non voglio guidare da lì. Cosa ti stavo dicendo, Fra? Vediamo un po'. Comunque il segnale è buono, Fra. Già va bene, allora di solito per Alghero, quella zona lì non è che sia stato favoreotto, arrivo di solito. Stare partito con il segnale lì in macchina è buono. Allora, va benissimo. Va bene, benissimo. Carlo, va bene, hai fatto. Guarda adesso se sta andando bene questo qui. Sì che sta andando bene. Questo è il suo originale, ho aumentato un pochettino il trimmer che c'è all'interno del microfono e pare che guadagni un pochettino. E qua il guadagno del microfono ce l'ho al massimo in questo originale e dovrebbe uscire diciamo bene, dai. Ma questo microfono è precompresso? Sono quei microfoni che hanno l'alimentazione perché hanno quel coso elettrete, qualcosa del genere, sì. E sono sicuramente, diciamo che hanno un preamplificatore, vabbè comunque vanno bene, sono precompresi forse, come tipo quello del Tokai. E che apparecchio è quello, se puoi dirlo sempre? Io sto usando un Albrecht AE5890 che va in AM, in FM e in SSB, diciamo è quelli che hanno la configurazione europea, quindi puoi cambiare anche a seconda del paese dove sei, è omologato, sto uscendo con 4 o 5 watt. Va molto bene, va molto bene veramente. Allora, allora mi sa che lascio il microfono originale, buonanotte. Però diciamo che ho fatto la prova e con questo MB+4 comunque me lo lascio come microfono di emergenza, perché comunque i collegamenti sono fatti bene e comunque c'è bene anche come microfono, anche se non preamplifica quasi niente, però forse con la mia radio non è perfettamente compatibile, però pur sempre un microfono è che funziona, capito, e lo tengo qua. Sì, col microfono mi fai delle accortezze, mi fracca, lo sa cosa fare, e poi lo vedi come esce. Dico sempre ad Alghero, sì. Franco, qualche giorno fa che parlavi da Fertiglia quando stavi pescando ti sentivamo ancora meglio, perlomeno io ti sentivo più chiaro di radio e anche più forte di segnale. Anche io, sì, signore. Sì, l'altro giorno stavo arrivato a Santiago 7-8, e stavo arrivando con quel segnalista. Non so se vi ha attaccato o no, ma stavo arrivando bene. Dove sei all'entrata dell'aeroporto? Dove mi fermo sempre io? Ho capito, È un posto brutto quello lì, è un posto tremendo. Perché hanno disturbato gli aerei perché stava afferrato? Se no devi fare la pulizia. C'è gran campanetta per la banda aerea. No, Santiago 4 c'è. Sì. Sei impressa in macchina, ma io da lì come si chiama? Con l'amplificatore della città arrivavo a Sassari 9.5 e poi con l'antenna lunga, capito? Con l'antenna con la tubo. Io domani me lo prendo, quello della CTE 747, me l'ha trovato Luca tramite un suo amico e domani me lo prendo. Sì, è molto buono. Sì, per la macchina, perché anche io secondo dove sei proprio non esci per niente. E un aiuto ci vuole sempre, in macchina soprattutto. Quello non ti fa distorcere, la radio non è nulla. Ti aumenta anche la radio. Sì, domani me lo prendo. Ho già chiamato chi me lo deve dare, mi ha detto che ne ha due, che uno l'aveva in macchina e l'altro in casa, però dalla macchina ha tolto tutto, per cui uno ce l'ha in più e me lo vende a me domani. È piccolino e quindi se c'è diciamo il regolatore di potenza sulla radio dovrei riuscire anche a pilotarlo, capito? Il primo che l'ho messa sono stato io, poi l'ho preso gli altri. No, l'ho dato io qua. Infatti io mi sono fatto consigliare da voi perché lo stavo cercando, allora Luca mi ha detto prendi il 747 della Midland che vanno bene, funzionano bene, sono ottimi, e allora ho detto perché no, perché ci sono tante marche, però meglio andare sul sicuro e prendere qualcosa di già collaudato, capito? No, aspetta, quello lì lineare, cioè finali a mosse, differente da tanti altri che ti fanno uscire con radio distorte eccetera eccetera, quello ti aumenta anche la radio. Meglio così, perché la radio in effetti è molto bassa. A me perlomeno mi aumentava la radio e in più mi dava partivo, partivo da Porto Torre, se Claudio mi sentiva da quando partivo dai granai dove lavoravo, dal parcheggio, da lì 9.5 sino ad arrivare a Sassari, sempre col segnale 9.95, da lì 9.9. Ho capito, vuol dire che già va bene, dai. E così domani se ho tempo lo provo pure in macchina e vedo un po' se è il caso di cambiare, perché io antenne ne ho due, sono tutte e due Midland, una è la mini Snake, qualcosa del genere, quella che ha i dischetti per la regolazione del ROS, capito, ed è 70 o 80 centimetri, non è molto alta, Poi ne ho un'altra, la S9, che quella è bella alta. Vabbè, io ti dico la verità, le antenne della vita non mi sono mai piaciute. Io usavo l'EM Sigma come antenna. Della NEM, quella che preferisco, la tubo 2001 che ho sempre avuto e mi ha dato sempre ottime soddisfazioni anche da lontano. Anche senza lineare arrivavo sempre bene, perché quella lì è una bella macchina. È come avere un amato qua sopra la capota della macchina, io dico sempre così, perché è un'antenna Siria. Ho capito, e questa è roba che io da tanto tempo ho capito. Ce le avrò almeno 20 anni, ce le avevo giù in garage e le ho ritirate fuori, capito? Però se la trovo una di queste Turbo 2001 già la prendo da mettere sulla base magnetica, perché quelle sono quelle alte, diciamo, che sono almeno, penso siano 1,70, 1,60. 2 metri. Comunque Fusaro ce ne ha, ma da Fusaro te la prendi, costa sulle 60 euro come antenna, te lo dico già. Ho capito, sì, beh, non è neanche eccessivo il prezzo, dai, già si può fare così, la provo. La base prendi quella grande, se prendi quella antenna lì prendi la base più larga che c'è, quella da 120. È quella che ho io, è bella larga, sino a 160 km di velocità regge, capito? Sì, Franco, ci sei? Buonasera, cambio, vi saluto tutti e due, sono ancora poi da Caratto. No, ma non ho capito chi sei, ciao. Ciao Giovanni. Ciao Flavio. Giovanni è da Platamona, Gianni. Ah, ciao Giovanni. Giovanni, vai avanti. Non ne ha, scusate, la 150. Quindi sei in macchina, Giovanni sta facendo più forte. Sì, stamattina ha fatto delle prove a casa, ha detto che ha messo l'antenna, ha messo l'antenna su un palo di 3 metri e infatti qua mi arrivava Santiago 8 di segnale, capito? E la radio è abbastanza buona, radio 4, e adesso mi sa che ho capito che è in macchina, Giovanni. Tu sei Santiago 5, Cristian, dove sei? E Santiago 5 e mezzo, sì, no? Capagata. Era male. Adesso ci sono di nuovo macchine, prima ero l'unico che ce l'ha per passarsi, non ne va nessuno. E adesso qualcuno più c'è. Poi ero rimasto solo io con l'antenna nella macchina, infatti non ne stavo mai, sembravo l'unico su questi, che cazzo. Vabbè. Adesso vediamo, dai, che cosa ci fa sentire dalla macchina con 747. E io lo stesso, in macchina ogni tanto la piazzo con la base magnetica, però poi quando parcheggio eccetera la tolgo, perché sai, lasciarla là attaccata penso che attiri qualche ragazzo incuriosito a dire cos'è non è, e quindi la levo sempre quando parcheggio. La piazzo solo quando sto andando al lavoro, che ho i parcheggi, là tanto ci sono le telecamere, per cui non ho problemi a lasciarla al posto di lavoro, però poi una volta che rientra a Sassari la tolgo. Ma è un'altra cosa, tu ce l'hai sotto gli occhi, c'è un grido. Io la tolgo lo stesso, non mi va di lasciarla, anche perché una volta l'ho lasciata, mi hanno tagliato il filo e me l'hanno rubata. È appunto per quello, perché è uno specchietto per le allodole, già capito, a lasciarla così. Un conto se ce l'hai fissa, e altrimenti con la base magnetica è sempre meglio toglierla. Io dico la verità, la stavo mettendo fissa, perché la macchina l'ho portata a fare l'impianto, essendo una macchina nuova, eccetera, l'ho portata a fare l'impianto da quello che fa l'impianto esterno, eccetera, eccetera. Mi ha messo cavi grossi, diretti alla batteria, è stato 3 ore per cercare i punti per passare i fili, perché non si trovano così facilmente. E comunque mi ha fatto un bel impianto, l'ho fatto ordinato, tutto l'ho facettato, ho fatto come si deve, e mi ha detto se volevo mettere anche l'antenna, gli ho detto di no, perché non volevo bucare la macchina nuova, non mi dava. Però poi di prendi mettere il baracchino, diciamo che ne avevo buio in macchina, quindi mi sono fatto la base magnetica e cosa? E quelli grossi che si mettono per i campi stereo, quelli grossi. E lui mi ha messo quelli che sono particolari, dai, sono cavi che loro usano per fare grossi impianti da 2000 watt, eccetera, eccetera. E così me l'ho fatto per lineare, per volevo dire, non mettere mai il lineare in corso, me lo accendi sì, perché ti brucia la centrale. Sì, no, quello lo collegherò direttamente alla batteria. E anche la radio, la cosa migliore, cioè finché hai 5 watt va bene nel cavo accendisigari, però se inizi a dargli più roba è meglio l'attacco diretto alla batteria. Ma io c'ho attaccata la batteria, anche quando ce l'avevo c'ho tutto collegato alla batteria, quindi si è fatto, però la massa presa dalla carrozzeria e diciamo il rosso l'ho preso dalla batteria. Sì, bisogna pentarsi un pochettino, perché passare i cavi, come hai detto tu, è una bella rognetta, capito? E quindi adesso dovrò vedere un giorno che ho tempo, mi passo già i cavi di alimentazione e li attacco direttamente alla batteria. Ma io non ho provato, perché lo volevo fare io l'impianto, che l'avevo già fatto nelle altre macchine, però non sono riuscito a trovare un buco per passare il cavo. Lui ha guardato, si è attaccato luci potentissime per vedere dove c'erano i buchi dove poteva passare. È stato levato battaglia anche a lui, non riusciva a trovare. Ho capito. Adesso mi sa che esco e accompagno mia figlia a fargli fare il tampone, perché era con la febbre a 40, adesso gli è scesa a 38, non ha raffreddore, non ha mal di gola, non ha niente, c'ha solo un po' di dolori muscolari e infatti oggi a scuola non l'abbiamo mandata. Adesso la dottoressa vedo che mi ha mandato la prescrizione, perché gli studenti se vanno in farmacia con la prescrizione praticamente non pagano niente, se no sono 15 euro. No, ti stavo per dire, perché non glielo compri tu, tampone lo fai tu a casa, se non paghi nulla va bene così. Sì, però praticamente la farmacia ti rilascia la certificazione, addirittura ti arriva anche il Green Pass aggiornato che serve per rientrare a scuola, serve quello, perché diciamo è in collaborazione con l'ATS, capito, ogni farmacia. Invece se tu ti fai il tampone fatto da te non ha nessun valore, giusto un controllo che ti fai tu per essere tranquillo, però ai fini del rientro a scuola o rientra al lavoro vogliono quello della farmacia. Ho capito, non c'è la certificazione, non va. E va bene, allora vai in farmacia, faglielo fare, dovrebbe mai farmi a pulire. Guarda, io l'ho fatto qualche giorno fa lo stesso, perché anch'io ero col raffreddore, appena appena di mal di gola, febbre, niente, e invece l'ho fatto ed era negativo. E per quello che ti sto dicendo, mi è arrivato subito dopo, perché mi hanno chiesto la tessera sanitaria, mi è arrivato sia l'esito che l'aggiornamento, praticamente ti danno un green pass che dura 48 ore, capito, dall'esito. È un casino, tutte le farmacie piene di gente in fila facendo tamponi. E perché ci sono le scuole tutte piene lo stesso. Mia moglie, c'è un sacco di classi che sono con la didattica a distanza, lei insegna allo scientifico in via Cedrino, prima era in via Solari, adesso l'hanno trasferito dove erano i geometri prima, capito? E quindi c'ha tante classi, ogni giorno gli arrivano tizio e in didattica a distanza. Dice questo, avantieri era in classe, adesso è perché dice c'è il Covid e quindi deve fare la scuola a distanza, è un casino, c'è mezza Sassari così. Oh yeah. Ah sì, ho capito, dove sono andato con le ragazze? Come già, scusa che non ho sentito l'ultimo passaggio. Che hanno messo in quella scuola una risa tra ragazze, l'hanno messo filmato su Facebook. Ah sì, l'ho visto, quello è all'alberghiero, è più avanti, perché più avanti c'è la scuola alberghiera e invece più dietro, praticamente vicino a quei palazzoni alti che ci sono, lì invece ci sono i geometri e alcune sezioni dello scientifico, perché mia moglie insegna lì allo scientifico e ha alcune classi in via Solari e alcune lì, perché una parte dell'istituto l'hanno chiusa perché tutto con l'amianto, capito, gli hanno chiuso la parte centrale di via Solari. Quindi aggiungi da una parte, aggiungi dall'altra, sì, però non è monopola la cosa. È un casino, è perché c'ha la prima, la seconda ora in un posto, poi c'ha la terza, però devi spostarti da una scuola, andare nell'altra, quindi questo comporta che devi prendere la macchina se sta piovendo, andare in macchina, poi non trovi parcheggio, giri, a quando rientri in classe è passato un quarto d'ora, perché non fanno l'orario, capito, ad hoc, capito, come c'è il cambio dell'ora e il cambio di istituto, dovrebbero dare un'ora buca per dar tempo all'insegnante di raggiungere l'altra sede. Invece ti mettono un'ora attaccata all'altra e devi correre, capito? Allora, stiamo andando bene, per carità. Avanti, Franco, ci sei ancora? La Giovanni, mi hai sentito, là, ti è arrivata l'antenna. Santiago 7, 5, già sta arrivando abbastanza bella, va di bella, limpida, forte. Quindi questo qui non è il segnale dell'antenna che avete piazzato. Con chi l'hai piazzata? Con Luca. Ma Claudio vuole la Turbo 2001, quella da 2000, non quella lì, quella è piccola. Quella va bene, quella io ce l'ho sulla macchina. Vabbè, dopo mi fai sentire da dentro come esci. Sono curioso perché è preso... Quale antenna è preso? Vero? Quelle lì vanno bene le antenne, c'era anche Franco California e vanno bene. Franco, ci sei? Vabbè. L'apparato si può sempre comprare, non c'è problema. Ce ne sono gente che li vende. Che apparato è questo? È il 6009, CTR 6009. Quello è un bel apparecchio. Scherzato. È molto bello l'apparecchio, anche come stile. Avanti a chi tocca, vediamo se Franco entra. Franco! Chi è che vuole entrare? Avanti. Chi è? Avanti. Mi arrivava un segnale Santiago 8, però non ho sentito la modulazione. Sì, vabbè, io questi mi non li calcolo nemmeno, capito? Non sono degni di essere calcolati. Break. Cosa, Giovanni? Sì, a Sassari. Sì, break. Avanti, break. Buonasera a tutti, Natalino Alfa 1 da questa parte. Ciao Natalino, ben sentito, buonasera. Ciao Natalino, buonasera, me quattro chiacchiere stiamo facendo, io Gianni, poi c'è Giovanni da Platamona, ha piazzato l'antenna esterna e niente, ci sono io, prima stavo provando un altro microfono e poi ho rimesso quello originale però. Ah, cappa. Vabbè, Carlo, cosa ti volevo dire? Io a Giovanni non lo sento purtroppo, perché c'ho molto QRM, se non passa il QRM non lo sento, capito? Sta parlando della macchina, ma adesso che apparecchio stai usando, Giovanni? È una bella radio, cioè, ma è di quelli modificati, al volo. Sì, ma già esce bene, la radio è molto bella, è limpida, chiara. Infatti, bene o male, siamo sempre gli stessi, dai. Ogni tanto entra uno nuovo, c'è chi rimane, chi non rimane. Avanti, Carlo. No, a Natalino stavo dicendo che prima avevo collegato l'MB più 4, ma non è che amplifica più di tanto, e lo stesso risultato ce l'ho con quello originale, anzi forse quello originale va anche un pochettino meglio, e quindi lascerò questo, e l'MB più 4 me lo lascio in caso di emergenza, capito, sempre perché ho fatto il collegamento con lo spinotto e tutto a posto, a trasmette, ma non è che amplifica più di tanto. Forse dovresti aprire la LC di quella radio però, per amplificare, capito? Perché per far amplificare quel microfono già lo so io il trucco. Ho capito, ma bisognerà smanettare dentro la radio allora. E anche, ma l'MV più 4 si può far amplificare di più, diciamo così. bisogna smanettare dentro il microfono. Ho capito. Adesso vedo se trovo qualcosa, qualche tutorial su YouTube e me lo guardo, se riesco già lo faccio anche io. Così come ho fatto i collegamenti, capito? Mi ho cercato un po' di tutorial e praticamente mi sono fatto io lo schemino e al primo collegamento è andato tutto a posto. Le saldature le ho fatte col saldatore quello a bassa potenza, capito, che non, se no ti scioglie tutto, e comunque già non ci sono contatti, niente, ho lasciato solo scollegato il pin 6 e il pin 4 e ho collegato 1, 2, 3 e 5 e il microfono va bene come collegamenti, ovviamente non ho più il cambio up down, capito, come quello originale, però funziona, capito, a me interessa quello, che comunque sia il microfono va bene. E niente, adesso ho rimesso l'originale, gli ho portato su un trimmerino che c'ha questo dietro all'interno del microfono e dovrebbe uscire un pochettino meglio rispetto a prima. E già sta uscendo bene. C'è da fare un ponte lì nell'MB più 4 e poi bisogna riempirlo di cottone e tutto come c'è questo. Questo qui è l'MB più 4 che ho io. Aspetta, te lo faccio sentire. Carlo, mi senti? Sì, che ti sento, Natale. Questo è l'MB più 4. Vedi, io sento, ti sento bene, addirittura sento che c'è la TV accesa, sento tutto, capito? Quindi vuol dire che sta andando bene. Eia, c'è da fare... Io qua li ho tolti, è normale il mio, solo che gli ho tolto quell'affare dove c'è la capsula, quell'affare di ferro che c'è e l'ho riempito di cottone, capito? È tutto normale questo. Ho capito, e al limite poi un'altra volta già ci metterò mano anche a questo, vedo un po' cosa si può fare per vedere se migliora la situazione o meno, se no già va bene questo che c'è di microfono. Intanto cambi la capsula, già esce più forte il bambino, dovresti mettere di quelle capsule di citofono oppure di quelle capsule di quei vecchi Silio, ce ne presi, telefoni Silio. Ho capito, sono quelle piccoline, sì, dovrei recuperarne qualcuna però. E ne metti in mezzo al cottone, dico la farina mia che ce ne metti in mezzo al cottone, io l'ho avuto, ho cambiato la capsula, andava bene. Così mi diceva Natalino, cosa che farò magari quando avrò un altro pochettino di tempo ci metto mano, però se no questo qui è nuovo, questo me l'ha dato Eugenio, è praticamente nuovo di zecca, capito? Lucido. Ehi, ci credo. Eugenio mi ha dato anche a me un baracchino che era nuovo, in scatola, usato pochissimo. Però io quello lì l'ho venduto e me ne sono preso un altro uguale, nuovo di zecca, aggiungendo pochi dire. Sì, ho capito, domani mi prendo l'amplificatore, capito, domani sera, e poi quando ho tempo mi faccio i collegamenti con la batteria direttamente alla macchina. Infatti, mettici anche un fusibile tra la batteria e l'amplificatore. Certo che ce lo mettiamo, così spariamo qualche watt in più in macchina, capito? Chiara, cosa ti volevo dire? Attaccalo con l'MB più 4 a vedere come esce. Beh Natalia, adesso stacco e attacco l'altro, un attimo solo. Sì. Bravo, poi mi fai una prova radio, poi mi fai una prova radio, bravo, grazie. Attento Natalino, cambio. Natalino non ti sente, Giovanni. Non mi sente Natalino? No, negativo. Provala a casa a vedere, quell'antenna lì dovrebbe fungere lo stesso. Con quel palo te lo potevi mettere più alto, già che c'è in campagna te lo potevi pure più alto. E attirarsi, ma dai, non ho tempo, né... ma già attirarsi, da... Ti ho portato il tuo RM già, facendo lo sblocco, sento più il QRM che quando sblocca il coso che ha la voce sua, figurati. Da lì mi senti? Adesso ce l'ho a 2. Oh, mettilo a metà. Guarda, adesso in questo passaggio lo sto aumentando da 2 e lo sto portando a 5. E chi l'ha detto che non amplifica? E Claudio mi ha detto che non cambiava niente. Ma lascialo cantare, cosa no? Si è aumentato al doppio la radio. Giacomo, come lo senti tu a Carlo? Sì, ma io glielo ho detto che aumenta, glielo ho detto che aumenta. Però Claudio ha detto che aumenta il volume, ma non amplifica secondo lui. Perché Natalì lascialo cantare? Cosa vuol dire che lascialo cantare? Capitina, chi l'ha detto che non amplifica? Io lo sento che è amplificato, Cla. Ma tu lo senti nella tua maniera, io lo sento nella mia. Cosa vuol dire lascialo cantare? Io esprimo il mio parere. Per me non sta amplificando, perché grazie a Dio di MB più 4 ne ho avuto a centinaia. E per me non sta amplificando. Aumenta leggermente la modulazione e basta, ma non sta amplificando. Ma anche io ho espresso il mio parere, Gianni lo stesso, boh, sei tu che lo senti meno amplificato, diciamo così. Metti la manetta, Carlo. Ok, adesso da 5 lo sto portando al massimo. Beh, dov'è che sta cambiando? Dov'è l'amplificazione? Te lo attacco il mio MB più 4 col Galaxy, a vedere, te lo tengo a 2. Vabbè, ma sarà, il tuo sarà, avrà il ponte lì, glielo posso modificare anche io volendo, ma già bene la modulazione così. Il mio c'ha la capsula originale, dalla casa e nessun ponte, non è vostro ponte io. Il microfono è nato per funzionare così e se la radio lo riceve bene, che la radio è adatta per quel tipo di microfono, allora va bene, qual è il problema? Anche questo è normale, il mio è normale, non c'ha né punti né niente, c'ha la capsula originale, il cottone gli ho messo, gli ho tolto quell'affare di, che c'ha di metallo sopra la capsula e basta. Questo è normale, il microfono. E quello sta amplificando, perché si sente anche la televisione, il suo non sta amplificando, per me, con quattro radio della Kenwood, uno della Yaesu e col Galaxy ho commutato tutte le radio, lo sta amplificando, io amplificazione non ne sento solo un cambio di volume e basta, ma non di amplificazione. Claudio, dimmi. Guarda adesso, io ho acceso la televisione, se riesci a sentirla. Là c'è la portante. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. No, non devi parlare tu. Ci vuole essere esploratori, curiosi, avere domande. Mica si sente. Televisione. Ma ti sto dicendo, io buonosso, vabbè. Comunque, ti hanno detto Natalino Gianni che va bene. Va benissimo anche per me. Ok, non c'è problema. Continua, sono qua in ascolto. Io penso che il risultato non cambi più di tanto rispetto a quello originale, capito? Vabbè, rispetto all'originale c'è un po' più di volume microfonico, ma non la chiamo preamplificazioni. Quando un microfono è preamplificato si sente che amplifica proprio il volume della radio stessa. Questo ti tira su il volume della radio, ma non sento nessuna preamplificazione. Tutto qua. Vabbè, comunque, lascialo così. Va bene per tutti e non va bene per me, va bene così. Fate voi, non mi interessa. Sono in ascolto. Ti arrabbiare, grazie. Ehi, ciao Vanni. Gianni. Che va? Adesso non mi senti meglio? Cosa? Credo che sono di segnale. Prova a vedere. Sono le 3 ore là. S95. Ero messo la LEM con... gli ho fatto il PL, sto qua, ho fatto la regolarante. Mi fa male dentro la Iese e San Gavino. Sono dentro di merda, che paura è? Ah, io Cristi a cazzo, c'è una radio che fa piattare. Ah, ho detto un clip di macchina. Ah, tu di quell'ecco che forse esci meglio. Adesso com'è? È molto meglio sicuramente. Adesso così, dai. Ma perché avevo la tua stamina che stava uscendo bene? Questa ha avuto problemi, era il PL, sono andato alla cacchio di cane, dalla casa. Vabbè, per me stai uscendo benissimo adesso, non usare quell'ecco perché fa veramente impressione. Quando io sento un ecco che mi piace e non ho mai detto da 1 a 10, né che è brutto, né che lo deve togliere, né che non ho detto mai niente, quello già ne ho più rum e basta. Gli altri ecco sembrate tutti dentro la chiesa. Ma perché non lo sa regolare? Se lui lo mette, il volume lo mette. 10 e l'eco lo mette a 3, va benissimo, li dà appena appena effetto cattedrale, però va bene. Senti, questo è un eco, ma non vi detto mentre lo bevi il dottor Imbombante. Adesso mi volume a 10, com'è? Va bene, prova l'eco, metti la 3. Passa a 3. Prova a fare un passaggio. La 3 o la 3. Com'è adesso? Si fischia un stupido. Prova di nuovo che hanno fischiato, si capito. Com'è adesso l'eco? È ripetitivo, troppo ripetitivo. Da adesso a 1? A 1 non ce n'è. A 2 com'è? Va un po' meglio, dai, lascia la 2. Però secondo me l'avete toccato da dentro quell'eco, perché non è possibile, regolato a 3 a me mi andava benissimo. Non so dirlo a chi me l'ha dato. Vedi che ripete due volte, per quello non si capisce, toglilo del tutto, perché ripete due volte, c'ha ragione Claudio, no? A volte si sovrappongono le parole, non si capisce bene quello di me. Anni, ma che c'è, me lo comprendi tu che è meglio, vai, che questo è un tuo microfono. È la mia. Sì, sì, l'hai detto tu a mio fratello e lui l'ha dato a me. No, io non l'ho toccato allora, io non l'ho toccato, se non l'ha toccato lui, io non l'ho mai toccato. Avanti, cazzo, Claudio, Battarino, avanti, si arrabbia, c'è qualcuno? Sempre io, mi senti, cambio. Sì, ecco qua, Santiago Lope, cazzo, ora sul segnale vai, avanti. Che passaggio già fa? 1-2-3-3, cambio. 9-5, ma a me 9-30 era la barra mobile. C'è il cane che appaga, ma non sentito niente, è zitta. Ripeti, per favore. La parte mia è 9-30 era la barra mobile. Allora, è accettabile, vero? È accettabilissimo, un buon po' adesso, hanno gusti, Ah, ma pure, allora, si sente buono pure l'antenna, è fascia, è a 3 metri, si deve andare a 3 metri, questa la consiglio proprio, non è a tirare in vita. 9-5, sì, qua, se tu alzi il palo di quell'antenna va alla grande, perché come segnali sono buoni. La radio com'è? Che è mezzo preservativo questo cazzo di radio, una radio un bel vizio, mezzo preservativo io la chiamo, come te? Come te scende di radio? Era meglio là, ma però anche questa già accettabile. Mi tocca la strada, per l'avventura per la fa, un attimo mi stai dicendo di accettabile, l'altro qui, l'altro andato con me. Sì, la faccio. No, oggi va bene. Hai fatto un passo avanti. Sì, cazzo, i vostri affarrette, mi cazzo, fai sci. Se mi piace non riesco a ponermi in contatto con un attimo, l'ho visto nel tanto, con un attimo no. Scusa, io vedo l'interno quando qua mi fa, ma io da me non mi sento. No, ma da casa sicuramente ti sente. Da casa con quel segnale lì ti sente Natalino sicuramente. Natalino ci sei? Natale! Sì, hanno tutti chiuso là. Siamo rimasti noi e basta. Poi se me la fumo, dai. Poi sentiretto Cristian. No, sono a casa, perché avevo fatto il piano dell'antenna, della LEM, della base magnetica che era saldato dalla casa, ma saldato. Calza non ce n'era, il piano era saldato con un goccio di stagno, l'avevo fatto nuovo. Ma quei pali che mettete per le reti dei capi, non ne hai? Quindi i pali dei capi. Le reti che mettete nei capi da tennis, di quei pali non ne hai? No, di quei pali no. Quelli sono belli mi permettere l'antenna. Lo so, mio capo c'è il cugino, c'è la casa sua. No. E vabbè, dopo devi restarci gli altri, però intanto quelli lì sono. Ma io non ho mai la cabina, non bisogno di pali, perché la cabina c'è un tetto abbastanza agevole per salire e scendere, capito? Dove la metti l'antenna se non li metti il palo, scusa? Sul tetto, c'è una staffa che tiene a me, a te e a Claudio appesi. Vabbè, comunque guarda, se ti prendi quella vera, costa poco, 60 euro che te rende un me, è una bella come antenna. Ma qui ti dà vento però anche, che io sono una specie di vallata. 5 ottavi, ed è piccola come antenna, già taranta, 1 euro di stazionario, me ne pompa che cosa male, va benissimo. Quanto è alta? L'antenna davvero non è piccola, è un'antenna piccola, se la vedi sembra un parafulmine. Allora, ma potremmo pensarci, così più se la compro, dai. È una cazzata, costa sulle 60 euro su internet, guarda, Venom, mi sa che la fa l'assilio. Lo so che è una cazzata, però ho avuto un po' di spese improvviso ultimamente. E chi non le ha di spese? Tra condominio, chi si dà, sono sempre bisogno di fisso. Ma dico solo una cosa, 750 euro per la porta sul mattoio, non so mai se è uscito, da parte di tasca mia. Ma la chiatta? Allora, per casa mia, la pompa sommersa, se battuglio, 650 euro. Beh, quando vivi da solo sono quelli i problemi. Se sei condomini li dividi fra 14 condomini o 15 che sia. Ma quando sei solo, io vivo con i miei, però io non voglio spendere niente, ho pagato il taschino, sono pagato tutto quanto il coso, capito? Io devo contribuire a casa mia, Scusate un attimino, Gianni, Cristian, Giovanni, Natalino, devo uscire che devo accompagnare mia figlia, riprendo al limite più tardi, ciao a tutti, alle prossimine casomai. Ciao, ciao, magari se siamo qua ci fa piacere, dai. Buona uscita allora, con la pesce greca e farmacia. Capa, Natalina, va. Capo, ti saluto, ciao, ciao. Ecco, ti saluto, ciao, buon tutto, ciao, Carlo, ciao. Giovanni, e allora, sei contento? Sì, sì, abbastanza soddisfatto, te l'ho detto. Se tutto va bene, la lascio, quindi. Forse magari qualche serio, qualche apparato, qualche fatto in più, ma non lo so neanche, se va bene questo, se questo, non mi interessa più. C'è problema. Ma io ho una stazione in fase, la comprende, se ti interessa. Guarda, l'ho regalata. Mi piacciono, ma l'ho regalata. E perché l'hai regalata? Perché non la usavo, infatti, io so. E poi non sono appena iniziato con questi, non so neanche a che cazzo servono questi spesi. Nessuno è andato imparato, tutti quanti hanno imparato, a furia di vedere, di chiedere, di fare, di guardare su internet, eccetera, tutti imparano. Non è che io non è andato imparato, quando sei nato tu come sapevi guidare il campo. Fai passaggio, sapevo il volume molto basso, di spiegarti a porta e fai passaggio per favore. Ho detto, quando sei nato mica guidavi il carro, hai imparato da voi, no? Certo. Ma vabbè, non mi ha contento anche di queste spiegare, due ampere sto scendendo come alimentatore, due ampere sto scendendo, non ti fai che sbaglio. Ho anche un alimentatore se ti interessa, va bene. No, male adesso. Allora passa. Ciao, ma vabbè, comunque, ti hanno aiutato, sono contento che ti abbiano aiutato e ti hanno fatto concludere qualcosa. Luca te l'ha piantata a Mantena, Luca Fibber. Sì, positivo. Poi magari gli metti qualche mezzo di palo in più, di quel palo d'acqua, di quelli di fuori. C'ho tutto, ma non l'ho voluto mettere, buoni, ma non l'ho voluto mettere io, capito, no? Volevo il gusto di provare così, a vedere se va bene, cazzo, però già lo metterò, dai, adesso la tengo un po' così, da poi la seguì, la penso, la chiamo, se va. E per l'amplificatore l'hai messo? No, qui non è la messa, no, qua sto scendo pulito, ho detto una radiolina del cazzo. Ciao, non so che tu che di nuda. È un Midland 80 CH 100M. 80 km? No, ma neanche per sogno, mi pare arrivi a 32, mi pare arrivi. No, così c'è scritto, ma non ce li ha questi cazzo di canali, no? Hai provato a girare la manopola, un cazzo per lui. Perché devi girare anche A, B, C, D, guarda per le lì, e ti manda nei canali sopra. C'ha il volume, c'ha questo cazzo di squecchio e c'ha il giro delle stazioni, basta, non c'è altro, non c'è, forse non c'ha neanche le frene questo. Non lo conosco, non so cosa dire, però per aumentare il canale non è questione solo di girare, ci sono A, B, C, D, le lettere, le più rimuovere, quello lì che invece perché ho fatto il canale, no, sì, ho fatto canali, sì, hai ragione, ho fatto canali, sì. E allora, se c'è scritto CH, trattate, CH significa canali. Sì, bravo, CH c'è scritto, sì, lo mi fa adesso, mi lo arrivati, l'altra fai. Tu ho 40 canali qui. Sì, piano piano già ne impari queste cose, sono fissi. Già, io qui ho 40 canali MFM, e non c'ho altro. E anche io, c'ho un bici che ho fatto un uomo caro. Allora, adesso ho mollato la parata in macchina. Sì, se non è in macchina c'è di disegnare, non mi ricordo più la cosa che sei venuto. No, no, io li ho, ne ho. Anzi, magari ne faccio uno. Cash, cash! Due ne ho bruciati, cazzo, in giro di pochi giorni, cazzo. Sono andati proprio i giorni. Ma sono per il culo, se ne 47 me la compro pure io per la macchina. Basta andare al mio piccolo, comunque, ce l'ha. Ma se ne 47? Sì, però lo vendono a prezzo superiore. 60 euro per fare pure 90 euro, una cosa del genere. Ma non è che tanto, dai. Alla Fusaro, stai dicendo, no, alla GBC. Da Torino. Serra Secca. Ah, da quel tipo, sì, c'era andato. Cazzo, ma povere, manco girate poi in suo negozio. Che cazzo, la vita che reponete chi mi... Ma povere cosa? Se non sa mai questo cosa va, non ha visto manco gli imbarchi. Fare un magazzino, fare non un negozio. Cazzo, così tipo, vero, eh. Il cazzo sono entrato a fare le volte, mi sono dato fiato, cazzo. Un bel disordinato. Prima c'è quella ragazza che faceva tutto, poi ce l'ha mandato via, adesso... è stato da solo e non me la quasi più. E non va proprio a calo, va, lui ci vuole la calo perché è troppo incasinato quel posto. Ah, ma non ce la fa manco lui, non vedi com'è, tutto parla piano piano. No, sembra che non ne abbia voglia. Mi è partito da Barreto, cazzo, però è un'impressione mia, è stata lì, mi è partito abbastanza di giusto, dai. Allora si è ripreso. Ma che parati, la turba? No, era... ma macchiato, dico. Stando a Napoli che mi ancora a fare la macchia rompia, sì, vediamo, adesso. Vabbè, comunque. Lino Trubi, 747, visto. Ah, io faccio un salto, dai, così, no, quando sono libero, dai. Almeno che li abbia finiti, ma ce li aveva, ce li ha poco fa. Che adesso mi sono a 14, sto lavorando, fisso ogni giorno. Dopo faccio la giornata, chi vuole anche di più forse. Sì, ma per i campi lavori giornalmente o a giornate così? Per i campi lavoro a chiamata, quando serve a pulire il campo, capito? Adesso sto facendo un altro lavoro, mi sto distaccando tra un lavoro e l'altro. E cazzo stavo dicendo, ma anche le reti piazzate? No, siamo un po' di tutto, guarda. Per adesso, da lì, io sto facendo che sono, ho trovato anche lavoro, adesso io faccio sabato e domenica quando sono libero. Ho capito, dai, ti stai arrangiando. Perché io sto lavorando con un amico che questo, ho sentito malattia, infortunio, non so cosa, invece è andato, proprio da qualcuno in Afan, e si mangiano 14 lontano, sto seguendo io perché per caricare il camion, per fare la merce per i clienti. Cos'è? Generali metalli? No, ceramica. Mamma mia, mi sembra che me l'avevi già detto, un pubblico. No, sono rotture di Wallace, una cassetta di 120x30. Pesa solo 40 kg, non ti dico altro, 4 mattonelle. E non so che sono pesate, ma lo so, le ho prese io, perché non è che... Quando stavamo facendo i negozi a Nuovo, sono andato alle Ceresate a comprarli col camion e li ho portati giù. Ma poi non vado molto soddisfacente, no, principale, sto lavorando, sono simpatici, ma sono tranquilli e simpatici, no, io lo scherzo tranquillamente, non ho problemi. Perché se che sono così si lavora bene, anche se sono più male, per carità di Dio. Dico il collega, sono, una ciofa, un collega, mi chiama, che ma, aspetta, vengo a tirare, ti do una mano, non c'è problema, siamo allegri tutti quanti, felici, prendi Giovanni. Eccolo, eccolo. Ecco, attento, attento, com'è la situazione lì? Giovanni, dimmi lo duro nei piedi in mano di Roma. Sì, stai alzando il volume, che cazzo mi sei da succedere l'altura? Stavi dicendo, scusami. Oh, ecco, tu già non ne prendi roba in mano. No, non sto con nulla, no, andiamo a rivedere. Beh, già c'è la stanchezza della guida, c'è quello dove vai, ti stacchi anche guidando, eh. Ah, figlio, a guidare proprio già dalla mia stanca. Cazzo, io ho guidato anche 3 giorni e 3 notti in continuazione, vabbè, 3 giorni e 3 notti ho guidato, con nessun sintomo, poi però già mi è fatta fuori. Poi te l'ha trovato stecchito. Poi si è coricato, si è fatto...